positivo, positivo Antonio, manco io ci vado d'accordo con la confusione. Sì, se magari confusione come può essere, come è capitato, come moduliamo noi, no? Che molte volte manco te ne accorgi e vai giù di portante e poi dici un attimo, scusa un secondo, è stato un momentino di defaillance, no? Ma lì proprio è urla, urla! Che l'altro giorno c'era questo, sentite cosa dite di cambio! E abbonato, non preve, no! No, guarda, quando entrano quelli che si trovano un paragone lì ai confini della Francia e cosa, rientro dei napoletano, mi sentite? E io mi facevo, io ti sento, ma non c'è bisogno di urlare come stai urlando. Uno quando ti sente parli come se ne parlava, no, vita, miracolo, legato in due secondi, tutto questo ecco. Che poi hanno anche un brutto vizio, quando schiacciano la portante, che finiscono di parlare, tendono la portante ancora schiacciata. Ma cosa, che bisogno c'è di tenere la portante schiacciata? Spiegamelo tu, Giuseppe. Ah, guarda, Anto, quello proprio una risposta non te la so dare perché non ne vedo manco il motivo. E poi poco fa hai nominato vicino alla Francia, adesso non mi ricordo se ieri o avantieri che ce n'era uno che stava proprio urlando e dice che era al confine, sono qui al confine della Francia, chi mi sente, però anche lì propagazione che andava e tornava e questo sicuramente ci ha lasciato le tonsille dentro il camion. È vero, Giuseppe, ci ha lasciato le tonsille, ma quando là c'è bisogno di scolarsi, di fare, se non ti cioè, se tu non senti a noi, non devi stare lì a fare chiamata, strachiamata, si scolava, si batte a pizzi, allora si tradisce, dove ce le ha tutte queste corde vocali, Eia, e poi faceva quei passaggi lunghi, cambio, Valentina, abbiamo le papatte di prima scelta. Guarda, è un macello, guarda, modulare in quelle condizioni per me è un disastro, guarda, quando mai non è bello fare un bel QSO tranquillo, far girare la ruota uno per uno, nulla, gli chi balli asinilli, perché si accavalla uno sull'altro, asini, va, se c'è io li distingo asini. Lo so Anto. Aspetta, se non lo so, ma c'è gente che tipo questi, no? Che sotto sedile magari hanno termosifoni come lineari e sembra che li sentano dappertutto, ma non è così, perché fanno solo macello. Infatti. Esatto, no? Ciao Massimiliano, ben ritratto, ben scusciato. Buonasera, ciao Giuseppe Tornado, dopo una marea di tempo. Buonasera Franchetto, avanti Giuseppe. Buonasera a te Massimiliano, ben sentito e ben trovato, diciamo, dai Massimiliano, tutto a posto da questa parte come spero dalla tua, dai, avanti Vacchetto. Ehi, io ho già salutato Massimiliano, ben entrato Massimiliano, tutto a posto, dove sei? Di rientro o già rientrato? Oh, sono andato a fare un giro in elicottero. Ciao, va bene. Arrivi. Arrivi, perché? Ti sei mangiato a fare un giro in elicottero? È una cosa naturale, no? Ah, certo, posso fare tutti i giorni. C'è un amico, in plastica. Ciao, va bene, Massimiliano, riprendi. Positivo, c'era qualcuno che chiamava Giuseppe, basso, vediamo un po' se cava. No, io la verità non ho sentito niente. Se c'è qualcuno che fa chiamata per Giuseppe, venga avanti, cappa. Poi carissimo, buonasera anche a te, dove ti trovi? Cava cava, cava di positivo, dai, in compagnia delle Buon Falchetto e di Massimiliano Bulldozer, avanti Falchetto. Io non ascolto, la dico, se ne fai da porte tu chi è la dico? Cappa, sta modulando tali punti, come mai stai arrivando così basso? Ah, sei in barra mobile. Positivo, dai. E Falchetto diceva chi sei. Falchetto, Tore Kawasaki. Massimiliano, hai copiato? Positivo, dai, anch'io sono in linea, ma penso che a voi mi ascoltano un pochino più forte. Comunque, salutoni dopo tantissimo tempo, Tore Kawasaki. Anche quello è vero. Io conosco uno di Tore Kawasaki, non so se sia quella persona lì. Chiediglielo. Chiediglielo. Ma è cambiato molto pure nel frattempo. Beh, senz'altro. Chi? Negativo, Tore Kawasaki dice negativo e Massimiliano. Forse per il discorso che stavate facendo avrà cambiato molto, presumo sia per quello, vero Tore? Sì, positivo, positivo, ce l'ha ancora. Gigi Vulcano. E hai lontananza, buonasera a tutti. Ciao Gigi, la PLC 800 o la 1600, chi ce l'ha? C'era qualcuno a me, non lo so, però c'è la grazia di aspettare niente. Sarà capo voglio, perché lo sto cercando, non mi piace, va. Quando viene già, lui, tu l'avevi preso, mi sembra, no? Una nuova. Ne vuole 48 euro, 40, 40 e qualcosa, non mi ricordo bene, Massimiliano, la CGO, poi ha aumentato un po' i prezzi, quindi, mi sembra 40 e rotti. Mi sono andato a sentire anche di una donna, Romero, ce l'ho io. Sì, ce l'ho io. Ciao a tutti. Vi saluto, Fanno Nacional. Ciao. Ciao, ma è vero che non ce l'hai, oh, Giulio? No, ce l'ho, ma non la prendo. No, assolutamente. Anche se non la uso, ma non la prendo. Ci sentiamo. Ciao Massimiliano, Giuseppe, Falchetto, Kawasaki, ma non è quel Kawasaki che noi conosciamo, e tutti gli altri, Gigi, eccetera, eccetera. Saluto a tutti, per me quello è tipo nazionale. Ciao, Giuseppe, prendi. Grazie Giulio, buona carica e ci sentiamo. Io Massimiliano, la PC4. E merita. Ma se la vuoi, sì, Massimiliano. Non è per me, mi ha capito, Giuseppe, quindi non so. Quanto è lunga, Giuseppe, la lanterna? Non mi ricordo, devo guardare nel manuale che ho qui da qualche parte, se devo essere sincero. E se dopo ci sentiamo, te lo dico. Aspetta un secondo. Perché se non è stata, va bene. Ciao Giulio Rollaro, buona carica, è buon tutto. Ciao Giulio, scusa, mi siamo dedicati, sono tardi. Ciao, buona carichetta, non la fai, ci sentiamo. Ho trovato il foglio della PC4. Sto scendendo, secondo me, capito Giuseppe? K di positivo. positivo. Allora, lunghezza qui dice la BC4 1150 mm, sarà quindi 1,15 m, così è. Vabbè, se 1115 mm. 1150 mm. 1,15 m, sì. Dimmi se ce l'hai in vendita con cavo, tutto quanto, te la prendiamo. Sì che ce l'ho, dovrei avere tutto qui a casa. Masetta e quanto c'è, l'antenna la vedo da qua. Poi il cavo non c'è problema, se no ti do quell'altro di cavo, non c'è problema per quello. Prezzo non lo so, fai tu, Massimiliano, non me ne intendo io di cosa, di prezzo. Fai tu e per me non c'è problema. Fai tu, io non lo so, dice, cosa costa un'antenna nuova? Quella è nuova, così. È nuova, e ha fatto 3 uscite in macchina quella. Dimmi quanto l'hai pagata tu, dai. Qua io ti dico la verità, se non mi ricordo male l'ho pagato o 40 o 45 euro alla GPC. Poi vedi tu, se me ne dà 25 gliela sto dando. Roger, dai, un secondo le scelgo, allora poi ti faccio sapere, tanto martedì la dovrebbe acquistare, perché martedì ci paga, ho capito, quindi fino a martedì niente. Ti faccio sapere, poi magari, non lo so, quando ci vediamo in verticale mi dai il tuo numero di cellulare, così ci possiamo sentire via filo. Positivo. Bianco, un secondo per me, che hanno suonato. Anche per me, dai, secondo. Rimane fermo. Cazzo, questo qua è quella Adesso il povero dottor sta ingegnarlo.